strada. Amici del Fermi, salve a tutti. Oggi abbiamo una nuova rubrica, Come eravamo, come saremo, e la prima trasmissione è dedicata a un'intervista che facciamo con il dottor Salvatore Gravè, oggi funzionario di banca, ma che ha frequentato il nostro istituto tra il 1976 e il 1981. Sono stati anni cruciali per il nostro paese, una sola cosa su tutte, ricordiamo il rapimento Moro avvenuto nel 78. Sono stati anni particolari per la società ragusana in evoluzione, e anni che oggi sembrano molto lontani, ma in fondo poi non è passato moltissimo. E a lui chiediamo quindi una testimonianza, però soprattutto di storia del quotidiano, cioè come un ragazzo di 17 anni, 18 anni, viveva dai 14 ai 18, viveva quel periodo sia dal punto di vista dei fermenti nazionali che della società ragusana. Allora io ovviamente gli do del tu perché siamo amici da tempo, e Salvatore, vorresti raccontarci un pochettino come è maturata innanzitutto la tua scelta di frequentare il liceo scientifico e che tipo di vita, di attività c'era a quel tempo allo scientifico? Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Tutti Fermi. Colgo l'occasione che mi ha offerta il mio amico Carmelo per riflettere su quel periodo particolare della nostra storia recente. Carmelo mi ha chiesto come è nata la scelta di iscrivermi al liceo. Dobbiamo ricordare che in quel periodo la scelta della scuola superiore dopo la scuola dell'obbligo aveva rivestiva, diciamo, quasi un carattere di scelta definitiva nel prosieguo della vita. Chi optava per una scelta di tipo liceale già si creava già un'immagine di poter andare verso un percorso di studi già proiettato verso l'università, quindi una laurea, mentre chi credeva già di poter accedere al mondo del lavoro optava per un istituto professionale. Io mi ricordo che in sede familiare fu dibattuto e da parte dei miei genitori c'era la volontà di farmi iscrivere al liceo classico, che rappresentava il top della scelta scolastica di quel periodo. Avevo delle perplessità più di natura sociologica rispetto all'aspetto didattico, perché è bene che i ragazzi ricordino che il liceo classico nel periodo in questione era la scelta precisa di una classe dirigente, già presupponeva, diciamo, che un percorso molto già guidato, mentre il liceo scientifico, che non era come adesso la scelta di riferimento del giovane, ma era già un discorso un po' diverso, perché presupponeva un approccio maggiore verso le discipline scientifiche, la matematica era ostica, già iscriversi al liceo scientifico vuol dire avere un'attitudine per un approccio di tipo scientifico. La mia scelta maturò anche e soprattutto in riferimento delle memorie o delle testimonianze che ho ricevuto di un approccio verso particolarmente classista da parte del liceo classico. E dobbiamo ricordare, Salvatore, anche ai nostri giovani ascoltatori che all'epoca andare a scuola e frequentare un liceo aveva un significato molto più importante di quanto non lo abbia oggi, no? Certo, non possiamo dimenticare che la frequenza a una scuola superiore dopo la scuola dell'obbligo non era una scelta opzionale che facevano tutti. Molte dei miei compagni si fermavano a terza media, già iniziavano la vita lavorativa, meccanico o cameriere erano dei mestieri che venivano presi benissimo a 14 anni anche per aiutare le famiglie a compensare il reddito. Già l'idea stessa di frequentare dopo la scuola dell'obbligo era già una scelta precisa. In questo contesto scegliere già un liceo aveva un significato preciso, significava già avere, vedere nella scuola un momento particolare di crescita, fare sì che la spinta che veniva dalla famiglia, le aspettative che venivano dall'ambiente familiare venissero ad essere, come dire, recepite, e credere soprattutto di poter aspirare a dei ruoli particolari nella società. Un'altra cosa che può incuriosire i nostri studenti di oggi è sapere quale fosse l'impegno scolastico dell'epoca, e che tipo di lezioni si facevano in classe e che tipo di impegno veniva richiesto anche per gli studi casalinghi. E che ti ricordi in proposito? Come dicevo poc'anzi, già il fatto stesso di essersi iscritto a un liceo, questa parola così importante, significava predisporsi a un programma di studi particolarmente selettivo. Mi ricordo all'epoca il biennio, soprattutto i primi due anni, erano particolarmente selettivi. La percentuale di rimandati e bocciati dei primi anni era molto alta. Personalmente ricordo che il primo anno furono bocciati 5-6 persone, 6 ragazzi, non perché fossero particolarmente, avessero dei meriti particolari, ma proprio perché si intendeva fare selezione. In questo momento, soprattutto, ripeto, le materie scientifiche, la matematica, mi ricordo un professore particolarmente temuto nell'ambiente nostro, era il professore Ottaviano, una figura particolare, diventò anche per un certo periodo anche il preside dopo la morte del professore Di Martino. Solo il suo vocione, quella figura molto possente, un professore d'altri tempi, capelli grigi, bianchi, corpulento, un modo di ondulare la voce, anche le sue reprimende erano terribili. Mi ricordo per esempio quando uno veniva interrogato e magari balbettava alla lavagna, lui cominciava un sibilo sinistro e cominciava a dire che lacune! Già ti gelavano il sangue, soprattutto magari se doveva poi andare a casa e dire, sai papà, insomma ho difficoltà con quella materia. Veramente, solo il pensiero di magari, non so, chiacchierare col compagno di banco durante le sue spiegazioni era qualcosa che non volava una mosca, veramente, una figura che ancora ricordo in certi momenti con particolare timore. Hai accennato già una figura che in qualche modo ti è rimasta mitica nella memoria, ce ne saranno altre e immagino che ricorderai anche in maniera particolare alcuni compagni di classe. Dobbiamo anche fare presente ai ragazzi di oggi che i rapporti per esempio tra ragazzi e ragazze in quegli anni, non stiamo parlando di un secolo fa ma di un paio di decenni fa, i rapporti non erano così liberi anche a scuola come invece sono oggi. Sì, hai detto bene Carmelo, diciamo questo, io ho avuto la fortuna di, proprio perché frequentavo il corso B, che era un corso in cui la lingua straniera era il francese e quindi diciamo minoritario rispetto alle altre classi, a questo proposito ricordiamo che lo scientifico di quegli anni finiva al corso E, quindi c'erano solo 5 corsi, di cui solo uno era completamente con la seconda lingua francese. Quindi chiaramente le classi erano miste, ma i rapporti erano molto particolarmente attenti al rapporto tra ragazzi e ragazze. Era impensabile, per esempio, stranamente, che si potesse magari nello stesso banco mettere un uomo e una donna, tranne particolare attenzione. C'era un certo, come dire, rispetto, pur con il cameratismo, insomma, che la goliardia che contraddiceva quel tempo, però ecco, erano, vediamo, gli albori di un percorso diverso. Erano anche anni, ricordiamo, che stava emergendo il fenomeno del femminismo, la consapevolezza del ruolo della donna, i suoi diritti, il suo nuovo ruolo nella società. Erano momenti in cui crescevano anche nella nostra società, che pur sembra una società marginale, un po' di periferia, in cui gli echi di movimenti, di momenti culturali venivano sempre, come dire, un momento dopo. Però erano momenti in cui emergevano. Ma certamente i rapporti erano improntati su un rispetto dei ruoli, non c'era un rapporto molto, come dire, garbato nel modo. Proseguendo proprio su questa, su questo crinale, diciamo, di storia del quotidiano e di vita di tutti i giorni, sarebbe interessante raccontare anche ai ragazzi di oggi come anche nella classe di un ragazzino degli anni 70, cioè di una scuola che comunque veniva accusata di essere una torre d'avorio molto distante dalla società, arrivavano però gli echi di quello che succedeva in società. Io mi ricordo, per esempio, te lo ricorderai pure tu, che entrò come una bomba la notizia in classe del rapimento di Moro. 16 marzo 78, un momento molto tragico della nostra storia. Mi ricordo che il giorno stesso il rapimento fu di mattina, quindi in orario scolastico, e il giorno dopo fu... entrammo tutti in sciopero, e quel periodo fu intenso di dibattiti, di assemblee. Effettivamente non si capiva bene quello che stesse succedendo. C'era il senso di un evento particolare, insomma, poi chiaramente in quel periodo non è che il panorama, diciamo, dell'informazione radiotelevisiva fosse particolarmente vasto. Avevamo i giornali della RAI, i telegiornali. Il stesso giornale non si leggeva, sì, va bene, con l'informazione locale o quella nazionale che, insomma, veniva fornita, ma mi ricordo che comunque i professori, soprattutto quelli, insomma, di lettere, insomma, più attenti al fenomeno politico, storico, si parlava. C'era il senso di un'emergenza nazionale, anche di un momento, perché il rapimento Moro veniva a innestarsi in una fase un po' particolare. C'era stato il 77, c'erano momenti in cui una parte della società premeva per dei cambiamenti, per l'emergere magari di nuovi diritti, soprattutto i giovani, magari, ecco, c'erano queste spinte. Ma, ripeto, la nostra realtà provinciale in questo momento rifletteva, diciamo, in maniera passiva tutto quello che avveniva. La storia la facevano nelle grandi città, noi vedevamo in TV, ne parlavamo, si avvertiva questo senso. Sono stati momenti particolari, ma anche prima e anche dopo, altri attentati particolari, e penso anche, non so, alla bomba di Bologna degli anni 80, il 1980. Momenti molto, come dire, tragici. Col senno del poi si potrebbero fare discorsi enormi su quegli anni. Li vivevamo con estrema attenzione, non ci dormivamo su, diciamo. Le mobilitazioni c'erano, le assemblee, le proteste, e in questo senso voglio dire che il liceo scientifico era più attento, mentre posso dire che da una parte il liceo classico, che magari proprio perché era diciamo molto più attento alla didattica, a momenti più, era un po' lontano da queste problematiche. Dall'altro gli istituti tecnici, che improiettati sul lavoro, sull'atteggiamento magari professionale, ma il liceo scientifico in questo senso si poneva come un momento in cui determinate problematiche della società civile venivano prese in considerazione. E ecco, magari stiamo dando anche l'idea di un momento molto cupo, tutto orientato sulla politica, però è pure vero che invece i tempi stavano evolvendo forse verso un disimpegno un pochettino di tutta la società e verso l'emersione di quello che sarà chiamato poi l'effimero. Ecco, a livello giovanile, studentesco, si sentiva già questo passaggio di epoca oppure no? Sì, in effetti, certamente, mi hai chiesto, diciamo, di quel momento particolare, che ho dato la mia testimonianza, ma è anche vero che non era tutto incentrato su questi aspetti. Se vogliamo fare magari un riferimento, anche forse non tutti ricorderanno, ma sai, sono certamente i film che danno un po' il senso del cambiamento. Ne citiamo solo due di quel periodo particolare: dalla febbre del sabato sera al tempo delle mele. Non so se i giovani ricorderanno, ma sono stati due momenti importanti per una fascia, diciamo, adolescenziale, una generazione di quegli anni. La febbre del sabato sera significava, insomma, l'emerge il fenomeno della discoteca, quindi del ballo, del sabato come visto come momento di divertimento, di fare tardi, ecco, il tempo delle mele, il momento in cui si formano gli amori dei giovani, eccetera. È chiaro che magari il periodo cupo o della politicizzazione, degli scontri che ci potevano essere di tipo ideologico, bastava anche scemando, emergevano anche, ecco, ricordo perfettamente, non so, l'inizio di un momento in cui si parlava di moda, prima non se ne parlava, le griffe, alcune marche che potremmo citare tipo Amarcord, non so, per esempio Fiorucci, Benetton, nascevano in quel periodo. Allora tu sei vestito in un certo modo, no, tu hai questo, il Vespone, chi non se lo ricorda, non so, era un momento particolare di un ragazzo, e poi per dire che poteva andare a scuola o prendere la ragazza con questo, il pick up, il 125, magari adesso sembrano delle cose un po' oleografiche, ma in quel periodo rappresentavano anche un momento in cui, diciamo, si voleva affrancare da un'immagine un po' grigia per avviare verso un fenomeno che poi conosciamo benissimo, quello che poi è successo negli anni successivi. Oh, a un certo punto anche per il nostro Salvatore Gravet, tra impegno politico e disimpegno alla Fiorucci, a un certo punto arriva il momento dell'esame di Stato e successivamente il momento molto delicato della scelta universitaria, che segnerà ovviamente un percorso professionale esistenziale. Ecco, come hai vissuto questi due momenti delicati? Ricordo che diciamo che poi 5 anni, soprattutto in quel momento così giovanile di crescita, passano abbastanza in fretta. Ebbi la fortuna di avere, soprattutto negli ultimi 3 anni del triennio, una classe con degli amici che ancora mi sono rimasti, come dire, intimi e hanno rappresentato molto nella mia vita. C'erano momenti, bei momenti di goliardia, soprattutto il 5° anno, lo ricordo in maniera simpatica, veramente. Ci avviciniamo all'esame di Stato, sistema non so se adesso è ancora in uso, ma era quello col membro interno, la materia che veniva, diciamo, portata a scelta e quella che veniva accoppiata, che chiaramente in ogni caso, se gestita bene al membro interno, era chiaramente una materia che ti veniva a essere conosciuta. Furono un momento particolare. Ricordo che anche in quell'anno, mi ricordo che ci furono 2 miei compagni che furono bocciati, non furono ammessi, bocciati anche agli esami, quindi anche lì un momento anche di selezione. Come tutti, ricordo le notti un po' angosciate, ma un'esperienza positiva, andò tutto bene, insomma, anche un ricordo simpatico. Riguardo alla scelta universitaria, io scelsi in quel periodo di iscrivermi a scienze politiche perché avevo un sogno, quello di andare avanti, e magari avevo l'ambizione, l'aspirazione di fare il giornalista, anche se poi, diciamo, la vita universitaria, insomma, i percorsi furono diversi e non ebbe modo di poter portare avanti questa aspirazione. Ma diciamo che in quel periodo, mi ricordo anche gli altri ragazzi, si cercava, magari ancora c'era il miraggio di una scelta di tipo, magari uno studio tipo giurisprudenza o altre materie affini, ancora c'era il mito dell'impiego del posto pubblico, che rappresentava per noi giovani, che non avevamo magari da proseguire attività paterne o come dire, percorsi definiti, era un momento in cui potevi consolidare un momento di studio. Nel mio caso poi la vita mi portò verso altre particolari vicissitudini. Un'ultima domanda, Salvatore, e non può che riguardare il futuro. Ecco, la scuola sta vivendo un momento di transizione, in realtà lo vive già da parecchi anni, e forse sta vivendo invece anche un grosso momento di crisi e di confusione sul proprio ruolo. Ora, restando legati alla nostra scuola e alla nostra città, e probabilmente in questa scuola potrebbero andare i tuoi figli. Ecco, da una scuola come la nostra, dal Liceo Scientifico Fermi di Ragusa, tu che cosa ti aspetteresti per i tuoi figli? Premetto che io ho una figlia di 11 anni che ancora deve iscriversi alla prima media. Da esperienze, da quello che sento, diciamo, da amici, constato che adesso il liceo scientifico è la scuola di riferimento di molti ragazzi. Sento anche da te, Carmelo, che insomma i corsi, gli iscritti ogni anno crescono e i corsi, insomma, si arriva a un numero di iscritti particolarmente ingente, per cui è chiaro che il problema della scuola si riflette con quello che sono le difficoltà che adesso ci sono nella società. È chiaro che bisogna essere particolarmente preparati, perché si va verso un mondo sempre più competitivo, dove magari degli schemi precostituiti, delle certezze che ci hanno accompagnato a noi della nostra generazione, i ragazzi di oggi non potranno avere. La scuola è un momento di crescita didattica, ma soprattutto un momento di crescita umana. È importante soprattutto questo. Diciamo che nell'epoca di internet, nell'epoca della facilità di accesso a mezzi di conoscenza, sì, è importante la didattica, è importante, ma è anche importante che ci sia una crescita. Una crescita che deve essere a 360 gradi. I giovani devono avere consapevolezza di in che mondo vivono, avere conoscenza con l'interdisciplinarità, con problematiche che possono avere, magari la massima apertura non solo alla realtà locale, alla realtà nazionale, ma anche alla realtà internazionale. Non si può passare in secondo ordine problematiche e il ruolo anche dei professori, insomma, deve essere quello di, come dire, trasferire ai ragazzi la consapevolezza del mondo in cui si vive. Questo è molto importante, secondo me. E ringraziamo Salvatore anche per queste ultime sue riflessioni, soprattutto per la lunga, forse, ma molto piacevole chiacchierata, e che sono sicuro incontrerà l'interesse di chi fu studente in quegli anni e la curiosità di chi è studente oggi e magari si vuole confrontare con le memorie di un uomo oggi, di una persona che affronta una società con certe responsabilità, ma che ha vissuto su questi suoi stessi banchi tanto tempo fa. A voi tutti, arrivederci alla prossima puntata. Scientifico.